cioè, se fanno così ci stanno prendendo in giro. Sì, la seconda casa, vuoi venire in occhi? E allora cosa fai? Tu ti controlli tutti, tamponi, chi su chi vuoi. Se vuoi stare qua devi essere controllato, se no figli liberi ti andando a casa tua. Cioè, deve essere così, deve essere. Spero che quel minchione non faccia le cazzate. Lui ha promesso, c'è anche uscito anche su Rai 2, è uscito. Lui ha promesso che fa via chi c'ha cosa. E dice che lo stanno facendo. Speriamo bene che almeno si impegni, perché se no la colpa la dobbiamo dare a lui, se succede qualche cosa. Io lo so, però ti ripeto, è un po' tutto incognito ancora, ho sentito un po' di cose, non lo so, c'è questa apertura per le seconde case, soprattutto il periodo di Pasqua, poi ci sono altre cose, so che hanno anche un collega dell'azienda, me l'ha detto, dice che hanno sospeso a Cagliari le vaccinazioni, insomma, sta succedendo qualcosa che non sta andando bene, non lo so, io ripeto, spero che vada tutto bene, non solo per mia figlia, insomma, che lavora al bar, ma per tutti quelli che hanno un'attività, che tengano aperti almeno nel periodo di Pasqua, insomma, li facciamo lavorare, cosa vuoi ti dica? Se succede qualche cosa è responsabile Solinas, se succede qualche cosa, è lui, il pieno responsabile è lui, perché lui aveva promesso, è uscito anche sul TG2, è uscito anche su altre cose, è uscito su altre televisioni, aveva promesso che lui faceva fare tutti i controlli e prima di entrare qua la gente doveva essere controllata. Se lui non lo fa, chissà cavolo di cosa, lui ci dorre un casino, la colpa ce l'ha lui e lui vorrà arrestato, vuole, perché è una persona che non ha mantenuto la parola. Ognuno dice la sua, cosa vuoi ti dica, purtroppo è così, non lo so, io spero per tutti in generale che ci sia una svolta decisiva su questa pandemia, se no non capirono i buchi mobili. Vabbè, cosa vuoi ti dica, stai arrivando fortissimo oggi, molto molto più forte di altre volte, sempre la solita potenza stai usando. Umaranno. Così va bene, no? Sì, sul 30, 9 più 30, di solito sei di picco sul 30, adesso eri sul 30 a pieno, no, non fa niente, tanto qua il segnale è sempre quello tuo, fortissimo, molto molto forte. No, io mi ho commutato al gas perché è meglio farlo andare ogni tanto, visto che c'ho solo queste due, 4:30 l'ho usato già un po' di volte oggi, adesso l'ho spento e ho acceso questa, se no rischia di che si inceppi, e la buona non ha giubbio a vero. Capa, vabbè, era un po' più su, era, ma penso che sia sempre a bomba, era un po' più su, vabbè, l'ho messo un po' più, ma non ho scaldato nulla, perché poi io di stazionarie ce l'ho 1-1, quindi no, e da cui non venne in hobby, cioè è a zero, e quindi già c'era 1-1 nell'antenna e tutto, non li va di nulla, capito? No, ma vai bene tu, vabbè, quella lì basta appena toccarla, no, io la sto usando 10 volte perché me l'ha anche limitata la mia, me l'ha limitata, mi ha abbassato, deve essere da dentro, non so cosa abbia fatto, però visto che non va più di 50 watt, ma va bene così. Va bene così, tanto quelle radio lì, se le tieni basse di potenza le sfrutti anche meno, durano di più, eccetera. Quindi la sto tenendo a 10 watt, modulati 20-25, capito? Già va bene. KK, ok, dai, me ne vado a pappare, sono andato a salutarti di nuovo, ok, a vedere se è passato al bar, perché ti ripeto, io sono un po' di giorni che non ci passo, sono incasinato, non mi voglio vedere, no. Va bene, dai, ci sentiamo se coincide più tardi, Anto, va bene, ciao. Ciao, cra, pure voglio fare una prova, voglio fare da voi. un'altra radio voglio fare, cioè tu con come si dice, con un coso, con va, col tempo tuo voglio fare una prova attaccare l'altro e col tempo tuo, capito? Ah, darti il segnale, quello è molto preciso, eh. Ho visto c'è poca differenza però dal Galaxy al 430, non è che è preciso anche questo, però col 430 te lo posso dare più preciso, capito? Non c'è problema, dai, ci aggiorniamo dopo, ok, vado a mangiare un boccone e poi sono nuovamente qua che mi stavo mettendo a posto un po' di cartaccia in questi cassetti che ho qui, così se c'è roba da buttare la butto e il resto la metto dentro la scatola. Dai, ci aggiorniamo dopo, Anto, se hai già cenato, buona digestione, io vado a mangiare un boccone, ciao. Cappagata, dai, dopo facciamo una prova d'alta potenza, a vedere, attacco quello là, a vedere com'è, solo una curiosità, Più preciso col 430, che è arrivato ieri dal laboratorio, quindi sicuramente è molto più preciso rispetto alla Galaxy, però ho visto le differenze, non è che sono molte, proprio qualche pelino, anche Roberto è sul DB, quindi su differenza dello strumento del Galaxy, col 430 anche lì è sul DB, quindi diciamo che è un 9 più 60 lo stesso. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, Anto, ok? Io spero mi stai sentendo bene, sto andando solo con la radio e il TAN è più 3 come al solito. Sì, è una bomba, no, ma che data lì, quando sono andato molto su, perché uno si è assurdato, cioè. Anto, con la radio se le dai potenza, con i picchi di modulazione che c'ha, è chiaro che è una bella bestiolina. Io ti ripeto, adesso la tengo così, la faccio andare perché sono stati cambiati un sacco di componenti, insomma tutta rifatta nuovo, quindi non la voglio forzare, poi piano piano magari anziché 10 watt la metto a 20 come la tenevo prima, però ho visto che già funziona bene, dai. Va bene, Anto, ti lascio, dai, vado a mangiare, ciao. Ciao qua, no, non è chi c'è un bescio, è l'altro. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, vabbè, dai, stavo confondendo nel confondermi, va bene, a dopo, ciao. Sei in bella! Manico! Sì, dai, ti ascoltano, vuoi stare parlando un telefono. Tutto bene, Lu? Sì, tutto bene, quel che va bene. Sì, anche io, tutto bene, quello che va bene, quello che va male, si picchiano, cambiamo mai, anzi si picchia mai, boh, di campagna zona adesso. Ciao, ci sentiamo dopo. Sì, ciao, grazie. Ciao a tu. Hola. E beh, Antu. E beh, Lu. Andiamo. Troppo. Uia. Ammazza chi ti ne varia, esci ci abbacciamo appena. Ecco qua. Tu guardati con la partita dopo, canale 5, sta per iniziare. Real Madrid e Atalanta. Oh, Claudio Spavie, abbai dai roghi. Prova. 1, 2, 3, prova. E la mazza. Tu questa sei sul 3 pieno, Anto. 9 più 30 pieno, sì. 5 in più dell'altra c'hai. Chissà cos'è. Allora, chissà cos'è. Pucci. E sciavi. Meglio fa così. Prova. 1, 2, 3, prova. Sugar. Segnalone, Anto. Segnalone. Oltre il più 30, sì. Number one, Antonio, number one. Tra un po' ti lascio lo scettro. Ah, zitta, andiamo la baggiù a vedere. Santo, tieni alta la bandiera, dai. Quando non sono più qua, sarai il numero uno, assieme a Roberto Quadrato. Sì, vabbè, dai. Non potrò essere mai il numero uno. Ehi, fa originare chi fai, ti difende Berto, a futti di. Gappa. Tutti, sta sfruttando tutto adesso, tutta la potenza, chi sa fare. L'ho voluto provare perché proprio Roberto l'altro giorno si è vabbè, io sono vicino a Roberto, se ti ha letto un segnalone, quasi 9.35 sul Galaxy, riesci a attaccare un 4.30, vedi? Così te lo do subito il segnale, ci togliamo la piogliola. Vai. Prova tu. È 1, 2, 3, prova radio, guarda. Ah sì, cazzo, mi sa più o meno lo smette. Prova, metti. Attenzione, Claudio Spaviero, senti bombo, K. È uguale, sì. 9.30 con picchi quasi a 9.35. Quasi 40, vero? Poco ci vuole, Antonio, poco. K. E suga. Ma siamo appena appena di noi oggi. Okay. Già va bene. Oh Luca! Oh! Com'è la modulazione del 4.30 che è arrivato ieri? Perfetta, bella. Sempre la solita? Sai che è più spinta, sento più prepotente come modulazione, comunque è bella, sì, perfetta. Manco male, ho fatto un bel lavoro. Tutti, dai. Va bene ragazzi, mi stavo pigiamando, vado a pappare, se ci siete ci sentiamo dopo, là. Ciao. Ehi, io mi sto prendendo un telefono, dai. Ehi, pulisci, là. Ciao. Kappa, Roia, e si fa rugnoso che anda a farmi la doccia, va. Si è come una manzana, è un casino, Mi pongo pure una bomba che per freddi, no? Che... Ehi, se siete una manzana, qualche po' di fava. Non venne a fianco di fava, che mi ha avuto tutti i dì. Ma ti dici, se ti davi tu una manzana, qualche po' di fava. Ehi, andò, Ma io tutti i dì non mi davo, ragazzi, ma così. Mi andava in ognuna di io. Mi davo quando lavoro. Ah, beh, logico, devi lavorare, sennò per fianco di fava, per fianco di tutto, beh. Non ho detto che io mi lavo solo quando vado a lavorare, boh, se no non mi lavo. Vai buzzinoso. Cosa mi lavo a fare? Sono burrito. Kappa. Ok, là, esci che farò io, insomma. Andrò a lavarmi. Via. E beh, Gianni. fatto da solo. Che cazzo, vai là, cavo. E vabbè, pazienza, aspetta due minuti. Prova tu adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ah, sei stato buon po'. Comunque, perché sono così curvato, è strano. Ah, se qualcuno l'ascolto, te lo dirà. Ma non c'è credo, c'è credo, non ti preoccupare, stai cadendo. Allora, i picchi sono la verità positivi, quindi a un certo punto, quindi, ora, è tranquilla la questione. Sto usando, ultimo modello. Sto dando il ricordo. Ti termino il lavoro, sto dando la verità. Come multi mode cazzo di giamma. Sto usando il 2009, letto. Adesso è uscito bene. Hai visto? Ma c'è il bipico così, 2009, boh. Ho spaccato adesso, comunque sia, sto usando il 2009. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Che pagava? Vabbè. Bella. Ok. Due secondi. Aspetta. Eccola qua. Sei stato un Alessio? Me ne sono accorto. E adesso sono chiaro? Negativo, ciao, buonasera Gianni da questa parte. Ciao Gianni, buonasera. Sei pensato, no? Esatto, sì. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Maniera, ti sta mangiando la radio, non so se si è agganciato o meno. Ciao Luca, buonasera. È proprio, non è bello ascoltare la radio, dai. Ciao Gio. Ho capito, quindi mi sta mangiando la radio. Sono quasi 100 e passa batte. Aspetta, allora facciamo così, staccato. Ok, va bene così adesso. Da notte al giorno, ciao Luca, buonasera. Adesso non c'è storia, proprio 10 a 1, dai. Ok, va bene, lasciamo così. Esperimenti? Yeah, esperimenti più che altro. E cosa stai trattando? Vabbè, un piccolo lineare. Va bene. Avanti Luca, ci sei? Sì, ci sono. Oh ragazzi, ma mi schiena, fanculo, ma... carità, anzianità. Dove sei la QTH ufficiale? Eia, QTH ufficiale. Eia, bel segnalone, sei sul... lo Smithy... l'inizio, cioè la lancetta sulla punta del più 30, vai. Eia, quattro volte, vabbè, Dio, lo sei andato, tu sei in basso, verso la zona della stazione, di in pieno. Avanti a lei. Vabbè, due secondi, dai. Vabbè, facciamo. Bene, ma cos'è quel 3009, preparato, vale? Sì, quello sì, ma a un certo punto. Ma mi ha passato già. No, vabbè, tu sei più alto. un pelino più alto rispetto ad Alessio. Vabbè, non so i watt che state usando, quindi però tu mi risulti più alto, dai. 5 watt e mezzo vuoi usarti. 5 watt e mezzo anche a me, la verità, sì sì. Come si dice, Luca mi risulta un pelino appena più alto di Alessio, dai. Comunque più o meno anche a livello di radio siete molto simili, adesso va meglio, poco fa era una bucaria. Il più piccolo sono io. Papà, io forza. Forza il papà. Ciao Anto. Ciao, chi se te lo conosci, un vecchino? Lo so, è mio, già lo vedo. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, buonasera. Il più piccolo sono io, sono. Bau bau, micio micio, no? Cappa. Ehi, dai, Terra e Verozzo, un Tego 3, Radio 5, non va bene? Ascolta, beh, come sto uscendo adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Guarda un po', come sto uscendo? Ehi, sei forte, sì. Quindi, sto a posto, sì, non è che sia stato una cosa del genere. Sto a posto, sì. Sto usando quel lineare piccolino, già lo sai anche tu. Un po' di saturazione, c'è un po' di compressione. Aspetta, lo sai anche tu. A un certo punto, ma già va bene, eh? Bisogna tenerselo a un certo punto. Beh, ti arrivo da quelle parti. A voglia, adesso staccato, tutto. Cappa cappa. Sì, andava e dai. Esci. Allora mi pongo la radio, là, che mi viene meglio, mi viene a modulare, perché qua c'ho devo stare in piedi. Ok, grazie. Perché non c'è problema, ci sta uscendo bene, a voglia, ci mancherebbe. Luca, ci sei ancora? Sì, sono qua. Cosa stai trattando? Il 3009 anche tu? Sì, supporta 3009. Si sente. Non c'è storia, dai. Beh, segnale, bella modulazione, proprio. Mi piace molto. Alessio, ma hai provato quando attacchi a magari a non spingere troppo il radio, magari riesci a uscire in maniera un po' più decorosa. E va bene, sai che più che altro a un certo punto, quindi non posso più di quello. Ho capito, sto dicendo, una volta che agganci, invece di uscire con il mic gain e con il microfono a bomba, magari abbassarlo un attimino, un pelino, per vedere se la qualità cambia, giusto per avere una comparazione. Domani facciamo la prova, non ti preoccupare per quello, ti chiamo e facciamo la prova. Te l'ho detto così, non ti devo insegnare nulla, è un consiglio proprio a livello agli olio. D'accordo, non ti mettere il problema per quello, là. Lo sai anche tu, quindi. Bene, Meda. Luca, cosa c'ha il Tarnet? Vai, il Tarnet, l'MB più? Sì, più 4. Come vediamo questo? Sì, sai che adesso un po' ancora, già c'ho una giornata, ho tempo a fare la puntura a mamma, adesso mi impigiamo, va. Sto roba di gacco, sta facendo sbagliare pure a me, che sì, sono da fretta, io già in piedi questa mattina, a fretta, io mi sono andato a fretta, lì sì, poi porto il bau e poi andiamo più. Eia. Bene, Meda. Ale, e che microfono ci hai agganciato al 3009? Boh, di solito, amplificato. La verità. È quello che uso. Di saletta. Ah, ok, vabbè, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ma cos'è, far male da tavolo? Da tavolo, tu lo ammetti, lo sai anche tu. Vabbè, ero convinto che fosse un palmare. Poi ognuno ha i suoi gusti, giustamente. Beh, logico, ognuno fa quello che vuole. E tu come mi ascolti con l'M95 e ZG? Bene, la verità bene. Quindi a un certo punto, vabbè, domani ci sentiamo là. A un certo punto, intanto ti faccio un giro, io sono un posto ricco, quindi se voglio incontrarmi ci sentiamo domani mattina, come si dice, no? Beh, se capita già sappiamo come ti si dice. Appunto, per quello, cosa succede? Domani mattina la cosa è grave, quindi vabbè, comunque sia, se voi fate un giro, quello che è, anch'io mi faccio un giro, siamo pari, quindi ci vediamo, così c'è, non a dove, se no al circolo, anzi no, al circolo no, perché non conviene, perché da dove è chiuso. Quindi al bar che c'è lì, mi vicino a cosa, mi fa la stazione. Ehi, come dice un mio carissimo amico, ci vediamo all'improvviso. Vabbè, allora, ora, me lo date un attimino, me lo date? Per cortesia, gli c'è a posto, tu cazzo, sono così intendi Gego. Ecco, un'altra potenza. Ora va meglio. Sì, a voglia. Scusatemi, stavo regolando le stazionarie, volevo vedere come andavano, già va bene, dai. Sì, già va bene, spesso scherzando. Ascolta, farò arrivare al picco massimo della potenza, SVR, cioè devo andare su SVR, fare la taratura, il picco massimo della potenza, poi metti VAT e Rosmutter, va bene. Vabbè, aspetta. Due minuti. Fai i calcoli a un certo punto e quindi sei a posto. Anche perché stavo scherzando poco fa, la verità, Quindi a un certo punto potevo fare di tutto. Fai le cose come stanno, stazionali, quello che è, eccetera, eccetera. Lo sai se lo deve fare, quindi a un certo punto sei tranquillo. Da parte mia e anche da parte degli altri. Fai il calcolo, passa e fai giù di Nutella. Oh, ne muore, niente. Cazzo, Tonino, c'è. Ciao, Tonino. Ciao, Tonino. Passa e fai giù di Nutella. Antonio, Popolino, capito? Passa e fai giù di Nutella. Ciao Tony, buonasera. Buonasera a tutti, dai. Mi sento scherzare, non operato perché l'ho fatto io, oggi la faccio poi giù, non è buona, eh. Avanti a tu. Capo, no, purgiami viaggi pure a me, eh. So che non lo mangio spesso. Tanto così che è una cosa, inoffito. Io metto fagioli secchi a bagnomaria per due giorni, penso a po'. Poi ho fatto bene cucinare, poi ho battuto un po' di avemarie, regate, piccolini, e di occhio è uscita la meraviglia, troppo buona. L'ho fatta sia a mezzogiorno, l'ho mangiata che anche stavolta. Poi, visto che è maltato, è già il cane non le vuole, allora lo mangiava. Ciao Tonino, buonasera. Ciao, buonasera, se lo mangiava, sono Giovanni. Gianni Lo Profeta, zona coordinata e stazione, buonasera. Gianni Lo Profeta, sempre simpatico, dai, sei sempre di dentro, quando ti ascolto, ti perdi pure a me. Che riso fa buon sangue, dai. Aion, tu cosa stai attaccando? La radio con la marmitta, con i rulli preparati in pinasco? Bah, è sparito, eh. No, stai avvicinando tutto quello che gli ho detto io. Faccio tu, ma a me, che fine avevi fatto? Era un weekend di Bantarone. Sì, a che poi non così? Lo pigiamo, dai, proponimi la notte. Non riuscì a ciapparlo. Allora già urlo. Trovato, dai. Ci ho bolliato. E poi mi portate il professore in tutto. Stato tutto, non è potuto ritrovare sulla posta. Con pigiama mi sono bolliato, pare una notte. Ha sognato che devo correre, non riuscì a correre, ero liato, cos'è? Di Bantarone è incrociato, direi. Perché c'è un pochino di freddo adesso, magari dopo già me ne gavo. Zio Tonino, tutto a posto? Ehi, ecco, a posto, non c'è problema. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Claudio. Ciao Claudio, buonasera. Ciao ragazzi, sto facendo andare un po' questa radio che è arrivata ieri. Sembra che funziona tutto bene. Ma ho sentito anche un cavallo Pomponio, vero? No, non sono io, no, quello è il fratello, guarda. Il fantasma, eh. Molto poco. È ballato. Era un giorno ti sentivo, vabbè, anch'io sono un po' assente. Comunque, oggi mi sono dedicato alla radio, un po' di questo li abbiamo fatti. Stavolta non sta partita, minchia, c'è Real Madrid e Atalanta, ma la sta ammazzando l'Atalanta Real Madrid. Cappa! Piano, va. Cos'è che ha detto? Tony, tu che sei più distante, va bene la radio come sempre, sì. Ottima, Santiago Radio, perfetta, 5 la solita tua voce. Quella che sentivi sempre, ok? 430 questo, con MC60. L'hanno mandato a dare una sistematina a Dezzani, che me la ducavo. KK, Rubrofetto, Cappuccio. Abbasante, Cla. Sì, stasera sono uscito a prendere una boccata d'aria, ho visto degli amici che non vedevo da tempo e quindi dai, sono tornato poco fa e tutto bene, dai, adesso ho acceso la radio, sono entrato così a sguencio, come si dice, e vi ho beccato, adesso faccio un paio di passaggi e poi mi guardo il filmettino come di rigore, dai, avanti. Io per tanto ti dico, sono entrato a spegnere, ho sentito Nino, Antonello, li ho sentito, Antonio, abbiamo fatto due chiacchiere stasera e quindi sono entrato a salutare, dai. Quindi vi auguro buon proseguo di QSO, se proseguite, sia a te Tonino, a Gianni Lo Profeta, Antonello Pomponio, Antonio Bombolo e chiunque sia in ascolto, dai. Ok, il cambio per Tonino. Se Tonino, non ti prometto niente, se mi libero domani ti faccio una chiamata e ci prendiamo un caffè, Scappa, perché no, però prima delle 11.30, perché io alle 11.30 sono appuntamento con il direttore di banca, che devo fare alcune operazioni e quindi cose che mi interessa la cosa fare. Se prima sì, Claudio, al 100%, se no non so cosa le 11.30. Non saremmo a prendere un caffè a mezzogiorno, Tony? Sì, molto prima, dai. Ah, mi sistemo il cane e poi ti chiamo. Prima, non ti preoccupare. Ok, allora ti chiamo, dai. Ciao a tutti ragazzi, buon divertimento e buon proseguo. Vai, ma a poco. Kappa, ciao Kla, ci sentiamo alle prossimine, ci sentiamo, dai. Più tardi, ciao. Ciao Anto, ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao Kla, allora domani ci sentiamo, dai. State bene, buon cuore tanto. Avanti. Antonella pure non l'ha spigliato, lo profetto. Ehi, ciao Claudio, buona chiusura. Alle prossime, dai. Antonello adesso sta sperimentando, sta attaccando molto pompe a tutto andare, molto coltivatori e gruppi elettrogeni, dai. Molto pompe attaccanti. E c'è lo spigirisco che è rotto. riuscite a mettere la grassa, dai. Ma questa cosa protegge il fidatore. Oh, yeah. Qualche gruppo a due tempi, magari. Sì, perché c'è il vero, però c'è mettere un questo effetto, credo, a stare a spogliatore. Ma c'era anche Luca, ci sei? Sì, sono qua, dai, un attimo mi sposto dalla radio che... Ciao, Tonino. Mi sposto dalla radio che devo fare l'appunto da mamma, un attimo. E lui, dopo dici se hai fatto qualche cosa per la schiena? No, Tonino, sto meglio. Il medico mi ha dato... Come si chiama? Un pastiglia, però. Già sto meglio. Sai cos'è? Che conosco troppo un tempo fermo che uso... che prendo pesi pesantissimi, pesantissimi, mi fa quel problema lì. Allora io ho iniziato stare fa, non voglio che il tuo comunque sia così. Io ho iniziato stare fa con questi dolorini, iniezioni, mi passava dopo un anno e mezzo, due anni, torna con dolori forti, pastiglie, poi mi passava, poi dopo due anni, altre dolori forti, insomma che fino a fare l'esalto magnifica e me l'ho due interni, anzi tre, due piccole e una grande, una me la sono fatta, adesso un casino, devo tornare a andare a metà aprile, che c'è il canale stretto, ho fatto tutti i riesi, quindi mi allogare un pochino la canna. Vabbè, devo mettere la psichiatra a titanio con le e devo mettere un robot, la mappa di Nepale Paese. Lo so, è un casino, la schiena. Ma sono giocata a palla a mano. Se prendi Gianni, non lo fai, dai, arrivo subito. Ehi, guarda, una cosa che potrebbe tornare utile magari, fare un po' di piscina, Lu. Fare un po' di piscina per un po'. Sono sicuro che magari qualche risultato buono esce fuori, dai. Va bene anche questo. E anche Antonio deve stare attento perché Antonio fa lavori pesanti. E quindi Alasso che è giovane ancora, tranquillo, ma la maggior parte io persone che ho sentito come me hanno fatto lavori, Pia Picchioccio per esempio, è produttore di dati, marmi, stesso posto. Capito Antonio? Capo, devo stare attento a chi burrezzo che pure esagerando. Patatino va via Mieva, da Boccia Sant'Antone, dai Noghi, mi l'ha giubata tutta a piedi. Ho visto c'è l'altro po' che è pronto anche perché mancava l'acqua, casino. Ma deve essere attento a tutti. No, perché adesso ce la fai, sei giovane. Ma un domani questi sforzi, qualche lui non le risente, mi auguro di no, che non ti succeda. Uno più di un altro, però la maggior parte sì, è così, purtroppo. Purtroppo è così, Tony, Non è Abano, Abano è giovane e quindi si è in forza, cioè, è normale, però quando si fa con l'età, quando si va verso i 45-50 anni, come c'è già un po' gareddo, a calame. Io devo salvare sempre la stessa cosa, ti fa troppo conto. E quindi ho pensato, beh, se torno indietro nel tempo, vuol dire che forse studiamo ancora di più e facciamo il bancario, ma con tutto un tavolo di nappa, più di nappa, più di vinchi, avanti, proprio. Vabbè, purtroppo sono quei retaggi che ci portiamo trasmessi alla generazione, in caso si cerca sempre di dimostrare qualcosa a qualcuno, poi in effetti col passare degli anni se ne pagano le conseguenze. Quest'anno già per la storia dell'acqua mi è andata bene, dai, sono riuscito a gestire bene il piccolo serbatoio qua a casa, però la volta scorsa anche io mi sono fatto i viaggi coi bidoni alla cisterna, però mi ha già regato il garrello. Fatto bene. Io ti posso dire una cosa, io abito 11 anni qui e ci abbiamo mancato due volte in 11 anni d'acqua, che troppo. Perché qua siamo un'altra linea e poi a parte ci abbiamo anche il posto, quindi acqua potabile, tutto controllato, eccetera. E l'acqua non mi è mai mancata, la verità. E per te la sono troppo. Che è una gruffiera, Tony, già lo sai. La tua pedana bassa è coppia già dall'altra. È normale che come metti la pezza più resistente, cazzo, la pressione dell'acqua, cazzo, fa sfondare le parti più deboli. È il solito giochetto. anche qua sotto casa ogni tanto si apre il tubo, mettono la pezza e poi dopo qualche metro più avanti il coppia già una sciubezza di tubo, lascia la pace. Vabbè, è così, il modus operandi è questo. Comunque, c'è una cosa che potremmo fare, no? Oh, vabbè. Allora, se uno invece si impara a ogni mese o ogni mese di controllare il contatore dell'acqua, quanti ettari di acqua consumato, si guarda la bolletta, perché quando succedono questi quattro qua, lo sai l'acqua che perde la città di Sassari? E lo sai a Manoa cosa fa, perché è una ladra, ruba soldi ai poveri utenti, perché ci si affibbia 10, 15, 20 centesimi, 30, 50, quello che è. Uno non se ne accorge in tutta la città di Sassari e paesi di zona limitrofe, lo sai subito che si fa, che si incassa. Non è colpa dell'utente se ci succede una falla e perde acqua, no, è colpa di loro perché non ci sono le manutenzioni dovute, capito? Come le faccio io nella scuola, giustamente, io faccio le manutenzioni e faccio elettrico idrico e vedo se c'è una cassetta di scarico del bagno che sta andando in ruggine, sta andando male, io subito ordino una batteria nuova e gliela cambio. Vedo solo il differenziale, tocco il tessere, non scatta, ok, quello non serve perché se uno prende la corrente rimane attaccata, allora subito lo odio e glielo cambio. Queste sono le manutenzioni che bisogna fare giornalmente, lo dico giornalmente perché sono parecchi chilometri di tubazione. Questo la Manoa non lo fa, capito? Ecco come si arricchisce sugli utenti. Ci sarebbe da denunciarli, brutti pezzi dare male. Vabbè, è una storia vecchia come il mondo, Tony. Purtroppo le cose vanno avanti così, che cosa vuoi ti dica? È come cercare di addrizzare un ginepro cresciuto vicino al mare, tutto va ridosso, tubiggiato e seccarlo di bonello dritto, cioè è impossibile. Ci vuole un ginepro nuovo, mi. Che crappa. No, io questo qua non lo faccio perché io ancora non ne pago, purtroppo, per assicurare la fonte. Se la pagavo l'avrei fatto così, il problema. Avanti, Antonio. Che crappa, tocca pagare, tocca, sempre a pagare. Cioè, è abusante. Anzi, noi siamo stati anche fortunati qua, che non siamo solo forniti dal Covina, siamo forniti anche dalla rete vecchia di Sassari, che sarebbe quello di su del Berighinzo, mi pare. Quindi un po' ce la davano. Invece la Tedolce no, la Tedolce sono Covina. E tuttora io oggi sono sceso a casa di mio padre. Era un filo d'Eva, ma stiamo scherzando o cosa? Adesso non so se noi siamo lasciati col Cuga o se sempre la famosa diga che dobbiamo appuntare in toto. Quindi, ma comunque, vediamo poi lui, sapete il discorso, vediamo se Pomponio ha trovato lo specifico. Antonello. Dopo! Pare che Antonio si è parato. Bruciata la frizione, dai. Bruciata la frizione. Insomma, ha fatto l'entrata dell'Orione e era uscito il mattone. Magari la stufetta l'ha mollata, dai. ma te ne metti il strutturo che è pittore, Antonello, che è passato il circuitatore. Cosa è successo? È tutto veloce. Oh, Giulia. Come dice Luca, andiamo bene, andiamo. Tony, ma sempre la solita radio stai usando, sì? Non ho capito. Ho detto, stai usando la solita radio. Gappa, microfono normalissimo. Mi tiriamo la tonia, quindi ho solo il microfono normale. Dovrei cambiare tutto l'attacco, sto cambiando piano piano, sto aggiungendo roba, però ripeto, dovrei modificare tutto il pubblico che ho fatto della stazione. E niente, ce l'ho WhatsApp in fatto della stazione. Come poi mi sento bene che mi opero e posso fare quello che dico io, lavoro con le mie gambe, eccetera, allora modifico tutto e poi cambierà dal giorno alla notte. Penso che ho preso anche un televisore piccolino che poi c'è colori, che funzionano con le TV, eccetera, e l'ho fatto da monitor che mi serve per la videosorveglianza. No, guarda, io ti sento un bombo. Ti sento veramente un bombo. cos'è, Galaxy con Mike Palmare, giusto? Sì, sì, il tuo originale, perfetto proprio. Un bombo, veramente una chicca, dai. Ti ascolto molto molto bene. E tu a tuo, come ascolti? Bene, senza problemi. Ho attaccato lo strumento, ho quasi tutto sotto controllo. Ora, ora, andiamo andare. Ok, va bene allora. Niente, a parte questa trattazione, è proprio. Ho intenzione di fare un altro bel lavoro qui, e ho messo una piantina di limone che già un anno e mezzo, due anni non ha fatto niente. Con tutta quell'acqua che ha fatto me la fa ricciata, devo toglierlo e ti ho piantato quel pinto. Da lì metto un terriccio di 8 metri e ci metto la massa da 5 che ce l'ho tutta bella stampata, a vedere come va. Certo, roba seria. Sei capa. Cioè, quello che c'ho adesso è l'energy, ma si può dare d'onda, però con 6 metri di palo e a fianco c'è questa palazzina che non è che mi dà molto fastidio, comunque per caso sono pulito, però non mi piace come antenna, non mi piace come altezza, lo voglio fare proprio essere perfetto e sono sicuro che qualche segnalino in più arriverò. Ma l'energy non va male però, Lo so, però è un po' fatica, capito, 6 metri di palo solo prima antenna. Io voglio superare questo testo mettendoci la provincia di 8 metri e quindi mettendo anche la terra fatta da 5 che dovrebbe essere una super antenna come segnale, dovrebbe promettere bene in uscita e in trasmissione. Sì, sì, beh anche quella ce la sollevi e metti la terza altezza e rende lo stesso. Ci sarà pochissima differenza. Ho fatto un errore grande, in uscita trasmissione, in trasmissione e in inserzione volevo dire, pardon, chiedo linea. No, la Energy già è una buona antenna, dai, c'è una Marcolino e esce veramente una cannonata. Sì, sono quelle cose stracubarate, dai. Poi la cosa importante è anche la posizione. Poi, sai, sono veramente virgole, virgolette, puntini, puntini, cose veramente decimali. L'importante è essere in una buona posizione e poi il resto sono veramente piccole briciole, dai. A meno che non si fa un salto di qualità cazzo da giorno alla notte. Ma io sono fuori Sassari, per il vizio sono zona staccamento. E non pensavo di arrivare, diciamo, benino verso Sassari. La verità finita, ho provato. Però giustamente voglio migliorare un po' di più come antenna. Sono tranquillo perché mi trovo poi in altura e quindi vedo anche Sassari. E quello mi gratifica parecchio. E come segnale sono un po' pulito quelle zone. Però vedi, ho negativo il portatore, se ce l'ho proprio il bambino, ieri non lo sento, quello mi ha fastidio. Ecco perché voglio mettere un tradicio appena come si deve, capito? Vorrei arrivare anche al vero e sentirlo. Vabbè, gli ostacoli sono quello che sono. Anche io ho a portata utica, c'ho Monteolo davanti. Riesco a vedere qualche monte di Nanurra, poi dall'altra parte zona di come si dice, Ossettissi, Usinetti, c'ero libera, però dalla parte di Alghero sono un po' coperto, Porto Torres è libero, Sassoseno c'ho la collinetta e niente, poi c'ho, sulla destra c'ho tutta la bascia di Sassari, però da già mi faccio sentire, dai. No, già arrivi bene giù. Io ripeto, sono buono anche per il muro, solo che K2 arriva perfetto qua. Siete bene, va bene, però so il peso di perfetto, sono libero, questo lo sono di loro. E niente, cazzo non lo sento, purtroppo. Non so neanche se ci sono lì. Anche lui è disteso, ma come diceva. Ok, Antonio, si entra. No, io sono allora Porto Torres riesco, non ho qualche cosa, c'ho qualche ostacolo perché è un po' colpa mia, dovrei sollevarlo un po' di più perché già sono in basso. La zona di su, Via l'Italia, bomba. dove abita Claudio, abbastanza forte, nella zona di su, arrivo a Ucilo, arrivo a Muros, mi difendo abbastanza, non mi posso lamentare. A me si cala per schiare, vabbè che via fusa, vedi mi ha detto qui, ecco perché dovrei più forza. Quindi oggi lo so pulito lo stesso anch'io. Vabbè, l'importante, ma mi interessa fuori, capito? Tanto che già siamo in un giro di schioppo, si avvicinano con l'altro, gli orari non siamo già distanti. Io voglio passare, diciamo, le zone negative che mia. Io ho portato che la stessa con 4-5, dove passo, non mi piace. Alghero non ci arrivo, non sento, e non sentire a me questo mi dà fastidio. Poi, di propagazione è diverso perché propagazione è all'inizio da parte. Avanti, protetto. Eia, vabbè, purtroppo non abitiamo tutti a Ucilo, dai, comunque, a parte quello, come è giusto che sia, le onde si propagano e gli ostacoli purtroppo esistono. Anche per le migliori stazioni, dai, non si può avere tutto, quindi facciamocene una ragione e ciccia, vabbè, è inutile pompare troppo, intanto non c'è neanche il motivo. Guarda, io sto scendendo con 4 watt, ho fatto un conto, ho rimesso i watt originali e niente, insomma. Muros mi sente bene, poi per il resto sento, molte volte sento del borbottio proprio a livello del QRM, però giustamente non riesco ad ascoltare e quindi giustamente non riesco neanche a capire con chi sta parlando e cosa sia, sento molte volte questo brusio, però non identificato, dai, magari mettendo un'antenna un po' più grande, insomma, già con una mezz'onda riuscirei magari ad ascoltare meglio, poi magari trasmettere non guadagnerei tantissimo, però magari a livello di ascolto riuscirei a guadagnare un po', dai. Ma hai detto mezz'onda, scusa, che te ne c'è, un quarto d'onda? Io c'ho una boomerang, quella da 3 metri, Tony. Mica, se ci vuole la 5 ottave, già. Vabbè, oh, quando sarà. Quando sarà la mettiamo, dai. Però per adesso già mi accontento, come si dice. Comunque arrivo abbastanza bene, dai, per essere la zona questo tipo che mi detto. Arrivi molto molto bene. Complimenti. Sì, sì, sì, roba piccola, ma funziona, dai. Ma ci credi che eri più forte tu che Antonio? Vabbè, siamo in due posizioni diverse, siamo. Lui è aperto, dove, appunto dov'è aperto? Io non tanto, però quando riuscirò a mettere un palo un po' più alto, sono sicuro che il problema lo risolvo, di molto pure. E allora cosa aspetti a mettere un palo alto? Sto aspettando un po' di buona giornata e cose, poi salgo su e glielo cambio. Poi glielo cambio e poi vediamo i risultati. No, io quando mi faccio il quinto qui, mi lo lascio una settimana, sempre l'asciutto, ci metto un bel tubo, diciamo, di 70-80 centimetri, di così, che ho messo dentro con delle staffe fatta croce e cialdate e affogate col cemento. Poi lì ci metto il palo, che deve mantenere in antenna, il palo, traliccio. E voglio fare tipo l'ascensore per tirare lassù, due binari. Voglio fare un lavoro ben fatto. Ci metterò poi il tempo, non me ne frega niente, tanto non posso appena ce l'ho per modulare. Quella, quando è pronta, come dico io, allora è diverso. Ho messo il tirafondi, per bloccare anche il traliccio. Voglio fare un lavoro ben fatto. Anche a quello metti due settimane al mese, non me ne appunti nulla. Questa non ne ho, tanto non te la darcelo per modulare. E sono sicuro che ascolterò, diciamo, meglio le persone, molto più segnale più positivo e trasmetterò qualche dice di più. Sono sicuro che, guarda, se riesco a uscire un altro po', perché qualche palazzo ce l'ho, io ho notato quel palazzo di fronte qua, c'ho anche. se riesco a salire almeno un metro e mezzo in più, sono convinto che cambia molto la situazione. Adesso lascio così, non vi voglio alzare sopra. Appena che riesco a prendere il palo, poi mi organizzo e via, la metto più alta. Sono convinto che cambia la musica. Ok, ok, va bene. E allora, altro fai? Nara, veloce. Che fai di poco tutelato? Per adesso niente. Mi sto occupando dei miei genitori, che sono anziani. E sono fermo, insomma. Per tutta una serie di congetture non dipendenti dalla mia volontà, come tu saprai, ma per cose molto più grandi di me, dai. E quindi niente, non mi sto limitando a questo, dai. Qui se ti piace qualche domattina te la fai. Sì, magari. Ne ho foglia, però ti ripeto, la realtà attuale non ho. Rema contro, dai. Diciamo così. Dai, se mi capita qualche cosa già ci siamo, dai. Magari un giorno, quando capiterà, magari ci si potrà anche beccare per berci un caffè. Quando la situazione sarà delle migliori, dai. Niente, dai, io faccio un altro paio di passaggi e poi vi saluto. Avanti, Anto. Capo, ma tu hai una curiosità, ma tu vieni a rubarla, sai lì? E non chi sopra, mi dice la pasticceria banale. Sarebbe che bar? Quello di Giovanni. No, negativo. Ma di Duque. No, negativo. Se mi hai visto, se ero io, magari mi hai visto al grillo. Al grillo, forse ho capito dove. Sopra c'è un parrucchiere, dai. È lì in Corso Fico, prima dello slargo. Il grillo era prima, c'è sempre quello, il bar verde. No, negativo. Quello è più avanti, Tony. Vabbè, ci manca un piccione da spazzarciamo. Ho perso tutto quanto, già ci faccio spesso col suo picco. Però non sto lì a guardare il traffico della gente branata che c'è. Se mi disabbo con poco, basta che darmi culo. Sì, quello che dici tu è diventato il bel bar. Attualmente c'è il proprietario Salvatore. Sì, il bel bar. Sì, vado anche lì ogni tanto la mattina a prendermi un caffè. Oppure passo al grillo a trovare qualche amico, così ogni tanto c'è qualcuno che conosco e quindi sai, per fare orario, insomma, vai a fare visita, dai. Comunque sì, mi fa piacere conoscerti perché, ripeto, se mi c'ho qualche lavoretto, ti chiamo, ci abbiamo l'uso, non c'è problema. Poi se domani ti non ti è passato niente, guarda, il fatto del caffè con Claudio. Se vuoi partecipare non c'è problema. Volentieri, Tony, però sai, adesso domani mattina mi devo regolare con gli orari perché esco a fare commissioni, compere, la spesa, quindi cerco di organizzarmi la mattinata così, dai. Quindi boh, adesso mi viene un po' male così, a freddo. Magari per un prossimo futuro ci possiamo organizzare, ci diamo l'appuntamento e ci vediamo in verticale, dai. Va bene, così che la facciamo, porto la stessa, sono che a freddo così no. Vabbè, dai, non c'è problema, quando giustamente sei disponibile, se il dovere può piacere, ce l'ho sempre detto io. Sai, devo badare, come ti ho detto, ad altre cose, quindi ho...